America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. An attack on humanity, that's what it is. It's an attack on humanity. And it's gotta be stopped. Thank you. Donald Trump a Mar-a-Lago, a Palm Beach in Florida, dove passerà le vacanze per Natale, Capodanno, ma dove sta lavorando per formare la sua squadra, e ha fatto una dichiarazione piuttosto chiara e diretta sugli attentati a Berlino e su quello ad Ankara. Dice, si tratta, parlando di Berlino, si tratta di un attacco contro l'umanità, ok? È questo che rappresenta un attacco all'umanità e deve essere fermato. Ecco, quando poi qualcuno gli ha chiesto se l'attentato di Berlino avrebbe modificato in qualche modo le sue proposte sull'immigrazione, Trump ha rivendicato con orgoglio la sua linea dura e ha detto: conoscete i miei piani da tempo ed è stato dimostrato che avevo ragione al 100%. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Beh, avete sentito Donald Trump? Questo è stato uno dei messaggi caratterizzanti della sua campagna elettorale, molto aggressiva, molto divisiva, che però gli ha portato evidentemente dei risultati. E in questo caso Donald Trump promette che chiuderà le frontiere a tutti i musulmani. Anche in Europa ci sono state reazioni alle forti migrazioni, al forte flusso di rifugiati ora dalla Siria, ma anche dalla Libia e da altri paesi del Medio Oriente. Alcuni dicono appunto che le reazioni politiche populiste hanno una radice anche in questo eccessivo, come dire, buonismo da parte dei paesi europei. Ecco, questo è solo uno dei problemi, dei sintomi del malessere del nostro tempo. È chiaro che se la classe media in genere fosse in condizioni migliori, probabilmente non reagirebbe con questa chiusura così marcata. E di questo parla nel suo ultimo libro Federico Rampini. E Federico Rampini, in questo libro che si chiama Il Tradimento, un libro della Mondadori, che parla di globalizzazione, di migrazioni e delle menzogne delle elite. Ecco, il tradimento, secondo Federico Rampini, è un tradimento delle elite. Io con me, Federico, ai microfoni di America 24, amico, collega, abbiamo fatto numerosi viaggi insieme al seguito del presidente Obama, corrispondente di Repubblica. Buongiorno Federico. Buongiorno Mario. Allora, beh, insomma, tu la butti tutta sulle elite, ma sono solo loro colpevoli? Cioè, è stata una menzogna calcolata, secondo te, oppure è stato un po' un evolversi delle cose che a un certo punto un modello che ha retto bene per 50 anni, per 70 anni, ha cominciato a scricchiolare? Sì, io credo che le elite abbiano mentito promettendo dei benefici che non si sono realizzati proprio sui due temi fondamentali del libro, cioè da un lato l'immigrazione e la società multietnica, che è meno armoniosa di come è stata descritta per tanti anni, e secondo punto la globalizzazione, che non sta arricchendo tutti. Allora io lì metto una data, diciamo, per ordinare le idee. Un quarto di secolo fa faccio nascere l'ultimo capitolo della globalizzazione, più o meno in coincidenza col trattato NAFTA, libero commercio, mercato unico nordamericano, in contemporanea ci si costruisce il grande mercato unico europeo, poi naturalmente a ondate successive o a balzi successivi cooptiamo la Cina dentro l'Organizzazione del Commercio Mondiale. Ecco, le menzogne ci sono state perché i benefici sono stati molto inferiori o non distribuiti abbastanza. Credo che siano in parte menzogne interessate perché le elite, alcune elite, da questi 25 anni hanno accumulato delle ricchezze straordinarie. Ecco, tu parti dal NAFTA, io farei un salto in avanti al G20, che è l'ultima creazione del multilateralismo, creata proprio da Barack Obama dopo la crisi del 2007-2009. Ti chiedo questo perché Trump è contro la globalizzazione. Ecco, vorrei capire dove ti posizioni in questa situazione. Ma certamente non mi sono convertito a Donald Trump. Americana posso tranquillamente ammettere di aver votato per la sua rivale, però Trump coglie nel segno quando smantella il politically correct, dice delle verità scomode sia sull'immigrazione sia sulla globalizzazione. Allora, torno alla tua domanda sul G20. Sono d'accordo che ci sono stati certamente dei grandi benefici della globalizzazione. Vorrei aggiungerne un altro. Se guardiamo nel lungo periodo, in questo quarto di secolo, alle diseguaglianze nord-sud, la globalizzazione ci ha reso meno diseguali. Cioè oggi la distanza tra i cinesi e noi si è ridotta, non è aumentata. Il problema è che all'interno di ciascun paese invece la globalizzazione è stata distorta in modo da arricchire prevalentemente una piccola parte. E quindi non si può rispondere all'operaio bianco cinquantenne del Michigan o del Wisconsin che ha votato per Donald Trump: stai buono, stai tranquillo perché oggi i cinesi stanno molto meglio. Lui no, lui sta peggio di 20 anni fa. C'è un capitolo in cui tu parli di globalizzazione, appunto globalizzazione addio. Dovendo immaginare delle vie di uscita da questa situazione che è chiaramente insostenibile, possiamo davvero pensare che ci sia un addio alla globalizzazione o forse un cambiamento del modo in cui la globalizzazione si sviluppa? Perché insomma è come dire: vogliamo arrestare il mare che avanza? Il mare ha già smesso di avanzare. Cioè, quello che io sostengo nel libro è che personaggi come Trump emergono anche perché la globalizzazione è entrata già in crisi per conto suo, cioè sono l'interpretazione politica di un sistema che si era già inceppato. Noi sappiamo che da qualche anno il commercio mondiale ha smesso di crescere, era stato per tanto tempo un motore della crescita, adesso è diventato un freno, e d'altra parte abbiamo delle rinazionalizzazioni striscianti delle politiche economiche. Il protezionismo cinese è un protezionismo occulto che sta peggiorando negli ultimi anni. Quindi diciamo che Trump dà una forma politica ad un fenomeno che nei fatti era già in corso. La globalizzazione stava fermandosi, si stava arenando per tutta una serie di ragioni, anche legate a delle scelte politiche di giganti come la Cina o l'India, che sono sostanzialmente oggi piuttosto protezionisti. Guardando in avanti, dunque, che modello di sviluppo vedi? Globalizzazione sì o no? La mia tesi alla conclusione di questo libro è: una globalizzazione diversa è quella che ci serve. Faccio un esempio fra i vari che cito. Abbiamo bisogno di politiche fiscali che voltino pagina rispetto alla gigantesca elusione fiscale delle multinazionali. Elusione fiscale a causa della quale poi gli stati spremono il ceto medio. Ecco, una globalizzazione va ricostruita su una base più equa. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Federico, sei sempre con noi? Sì. Cosa scegli? Beh, la settimana scorsa abbiamo avuto le prime nevicate a New York e quindi è d'obbligo White Christmas, Bianco Natale. White Christmas, la facciamo di Bing Crosby? Giusto, bellissima voce. Bing Crosby, White Christmas. Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.